and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Subito un aggiornamento sull'emergenza dermatite, quella della scorsa settimana, quella la dermatite dovuta al make-up usato dalle bambine dell'asilo. Ecco, sembra già finita. Quindi siamo contenti. Finita l'emergenza. Sì, sono mode che vanno e vengono, Drago. Una settimana si truccano, la settimana dopo tornano a essere scialbe, bambinocce, bambocce. Ma smettila con questa cosa del scialbe e bambocce. Insomma, le regole della seduzione non sono leggi immortali, scolpite nella roccia. Ecco, bravo. Senza saperlo hai messo il dito nella piaga. Ecco. Ma quale dito, quale piaga? Cos'è il festival delle frasi fatte? Tu hai detto scolpite nella roccia, che sì, è una frase fatta. Però sì, hai ragione, perché in pratica l'emergenza dermatite si è spostata alle rocce scolpite proprio. Alle statue. Le statue. Ma cosa stai dicendo, Drago? Le statue con la dermatite? Beh, una dermatite metaforica, allegorica, comunque legata al make-up, E lo sai di chi è la colpa? È del solito ministro bambino Bondi. Ma ancora lui, dopo Pompei che crolla, adesso anche le statue con la dermatite. Allora, il gruppo marmoreo con Marte e Venere, che si trova nel cortile di Palazzo Chigi, è stato truccato e ritoccato in modo posticcio e dozzinale, così è stato definito, no? Hanno aggiunto una mano che non c'era a Venere. E poi hanno aggiunto il pene a Marte. Cos'è Mickey? Se meno male che queste protesi sono rimuovibili, perché in caso di errore, cioè di aggiunta della mano a Marte e del pene a Venere, si è potuto rimediare in un attimo. Ma a parte che l'hanno detto tutti sta roba qua. Ma come? E poi cosa c'è di male? Scusa, le statue erano monche, adesso non lo sono più. Se invece di un vero e proprio restauro fatto a regola d'arte, hanno preferito appiccicare una mano e un pene fatti da qualche artigiano, incollati col bostic. È come quando in casa ti su un muro di cartongesso, sembra un muro vero e non lo è. Ma guarda che in tempi di crisi economica come questi qui il cartongesso è già tanto, l'hanno fatto per risparmiare. La mano e il pene, guarda, sono costati poco, infatti 70.000 euro. Ma come? Una mano e un pene di marmo costano 70.000 euro? Probabilmente 40.000 la mano, 30.000 il pene. Allora mi metto a farli anch'io. E poi perché, scusa, costa meno? Perché la mano è più grande, no? Quindi Marte era un po'... Cosa? Marte era... Ma cosa fai i gesti con le dita? Ma la mano è più grande perché il pene è una parte anatomica più piccola, non è che... Ma parla per Marte. Comunque, la Corte dei Conti ha già chiesto spiegazioni. Vuole sapere chi ha dato l'ordine, chi ha autorizzato la spesa, eccetera, eccetera. Insomma, la Corte dei Conti quando si muove, anche se si sa già che l'ordine è partito dal bambino premier. Per forza, a Palazzo Chigi chi comanda? A lui piace vedere tutto a posto, no? Mani al loro posto, peni al loro posto, eccetera. Tutto quindi a posto. Lui ha dato l'ordine e poi la spesa l'ha autorizzata il bambino Bondi, obbediente come sempre. Poi alla fine ci ha pure scritto una poesia. Marmo spaccato, arto fantasma, attacca tutto, problema risolto. Ma fa schifo. Ingrassati, voi vi siete ingrassati. Madonna, lei è un uomo che mi fa orrore. Chiedo asilo. Continuano a uscire libri di politici scritti per i bambini. Tu ne leggeresti uno? Tipo Veltroni, no? Che scrive. No, lui ormai, dai. Non so, manco se li ha scritti per bambini. Infatti, per adulti. No, io pensavo a Obama, Barack Obama. Ah, già. Il bambino Barack Obama. Evidentemente ha un sacco di tempi morti a Washington. Può darsi. Stavo pensando, scusa, come fa a scrivere anche un libro per bambini da 3 anni in su, quindi in età d'asilo? Come fa? Tra l'invio di qualche migliaio di soldati a Kabul, una stretta di mano ai russi, ha pure il tempo di scrivere favolette. Uno proprio non sa. No, ma non sono favolette, sono piccole biografie di americani importanti. Quindi, insomma, è e quindi anche parla anche di se stesso. Parla di Lincoln, Martin Luther King, eroi americani del passato. Guarda che la prima tiratura è di 500.000 copie, uno scherzo. Il ricavato lo dà in beneficenza, spero. Ha un fondo di solidarietà per i bambini rimasti orfani e per i soldati disabili, una buona causa. Certo, della serie Mentre tuo papà moriva in guerra e l'avevo mandato io nel frattempo ho scritto un libro. La settimana scorsa avevamo parlato dei Jonas Brothers, la band ragazzina impegnata in prima linea nella lotta al diabete. Quindi... questa settimana invece il diabete torna a far parlare di sé per la protesta dei genitori dei bambini diabetici del Lazio che da mesi aspettano di poter incontrare il governatore della regione e la bambina Polverini. Quindi sarà protestano. Impegnata che i discorsi sono, si mettessero in lista d'attesa, no? Hai ragione, ma hanno anche ragione loro ad arrabbiarsi quando vedono che la bambina Polverini ha ricevuto subito e senza indugi il bambino Califano, che aveva chiesto aiuto per la sua situazione economica personale. Avete letto, sentito? Scavalcati dal califfo. Eh sì. Poveri bambini diabetici. Ecco, quindi adesso la bambina Polverina è imbarazzata, i genitori dei diabetici sono furiosi, il bambino Califano, come al solito, l'ha sfangata. Era scritto nel destino che il bambino Califano trovasse la soluzione ai suoi problemi in una bambina che si chiama Polverini, scusa. Senti che bella battuta. Prima aveva la Polverina e adesso ha la Polverini, no? Aia! E ora, bambini, ricreazione. Tito, vieni, vieni, dai. Kappa, vieni. Kappa, quello è un tutor, Tito. Non è un cane normale. Eh sì, fischi. Sta in mezzo al cortile, scusa, almeno venga qua. Ma no? È lui che deve controllare te, cosa controlli tu lui? E cosa mi controlla se è in mezzo al cortile? Ma scusa, il suo ruolo è capace a farlo anche dal cortile. Vabbè. Dai, allora, oggi dobbiamo fare l'intervista al bambino Albertino sul suo essere che in novità, aula. Che no, novità. Perché no, vedi, noi lo vediamo sempre qui in mezzo al cortile, lo intervistiamo durante la ricreazione, però non l'abbiamo mai visto com'è con le suore, in effetti, con i suoi compagni, è vero, eccetera. Quindi, bambino Albertino, tu com'è che sei in aula? Come ti comporti? Mi faccio i fatti miei. Ah, quindi sei asociale? Sì. Ah, così proprio? Cioè, asociale, soffro di fobie sociali. Ma così, fin da piccolo? Sì, sì. Ah, cioè hai paura di stare in mezzo agli altri? No, paura. No. Cioè, più che altro preferisco stare bene per i fatti miei, no? Come un autistico, cioè. Non così grave. Ma tipo, no? Cioè. Però devo farti i complimenti per l'autoconsapevolezza, bambino Bernardo. No, dai, Bernardo no, eh. Vabbè, Bernardo, Alberto, Bernardo. No, è il nome di quel comunista di mio padre. Ah, ecco. È colpa sua se sono così, per le fobie sociali. Ah, beh, già, è sempre colpa dei genitori. Vedi, Kappa, questo è un bel motivo per rimanere un uomo no kids. Sei il solito... Egoista! Sei il solito egoista. Beh, certo. Cioè, per essere genitori come i miei... tanto vale rimanere senza figli. Sì, vedi, ma non giriamo intorno alla questione. Come sei tu in aula insieme agli altri bambini? Bambino Alberto, facci qualche esempio, domanda. No? Ve l'ho già detto. Me ne sto per i fatti miei. Ma cioè, te ne stai da solo, non giochi con nessuno? Sì. Cioè, tipo durante la ricreazione, no? Voi mi avete mai visto giocare con un altro bambino? No, vabbè, ma è colpa di Drago, ma sempre cosa? Lì con l'intervista, il microfono, magari giocassi. Ma dai, ma cosa c'entro io? È il bambino Alberto che è sociopatico, cosa c'entro io? Sì, ma grazie a te lo divento ancora di più. Visto. Comunque sì, io in aula me ne sto sempre per i fatti miei. Cioè, disegno, gioco col pongo... costruisco case con le costruzioni. Vabbè, ma quando poi c'è l'attività di gruppo? Ah no, lì mi viene il panico, Ma come? Cioè quando c'è attività di gruppo? Mi sale una paranoia pazzesca. Ma no, perché comincio a sentire l'ansia della prestazione. Ma come? Perché il lavoro di gruppo tutti si aspettano che uno collabori. Ma no, ma siete e poi bambini. Io non ho coraggio di esprimere le mie idee. Ma no, ma perché? Ma dai, ma non è bello quello che dici, No, e poi addirittura diventa una cosa psicosomatica, perché comincio a sentirmi soffocare in gola, no? Però dovrebbero curarti, Può darsi, ma sono solo un bambino. Quindi? E quindi se sei un bambino tutti credono che prima o poi ti passi, no? Invece no. E invece no. Ma i grandi non lo possono sapere. Cioè, loro sono troppo impegnati con le loro vite complicate, no? Piene di problemi pressanti, roba, cioè tipo i soldi, no? E vuoi che abbiano tempo di occuparsi dei bambini? Mamma mia, quanta amarezza e quanta saggezza anche dalla bocca di un bambino. Sì, quanta tristezza. Sì. Drago, ma perché non fai come gli altri bambini? Albertino, loro tirano avanti come se niente fosse. Cioè? Voglio dire, i traumi possono aspettare prima di uscire fuori, no? Sì. Albertino, cerca di vivere bene almeno gli anni dell'infanzia. Poi dopo vediamo, no? Poi vediamo. Così poi quando sono grande, a un certo punto mi scoppia il bombone e ammazzo qualcuno. Ma no, ma perché? Perché succede così, no? Cioè, uno si tiene dentro tutto, sempre, fa finta di niente, una delusione dopo l'altra, un'amarezza dopo l'altra, dal di fuori sembri normale, e poi capita che a un certo punto, quando sei grande, improvvisamente ti alzi la mattina e scoppia il bubone, e allora, lì fai la cazzata. Ma no, figa, il parolacciometro! 50 centesimi di multa per due parolacce fa un euro, mi spiace. Eh sì. Peccato, bambino Alberto, eri quasi arrivato alla fine senza dire parolacce. Lo so, ma è più forte di me. Lo sai che ti multano per le parolacce, no? Lo so. Lo sai, allora? Vabbè, allora, vorrei dire che oltre alle fobie sociali avrò anche una tendenza all'autolesionismo. E che cazzo? Ma vaffanculo! Cucù, il aprile non c'è più, è ritornato il maggio del canto del cucù. Torniamo domani e mandate le vostre protesi marmoree a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.